quasi una sensazione di impotenza. Sta parlando. Credo che lo Stato, le parti sociali debbano reagire e oggi pomeriggio non a caso ci incontriamo immediatamente per varare un piano straordinario. Ovviamente dovremo realizzare un'intesa fra Stato, Regioni, organizzazioni rappresentative dei lavoratori e degli imprenditori in modo da definire soprattutto azioni concrete che servano a creare un ambiente sicuro. Le regole da sole non sono sufficienti, anche se devono essere sostenute da una più forte capacità ispettiva. Come sapete, la competenza è soprattutto, tranne che per l'edilizia, delle regioni attraverso le aziende sanitarie locali, ma credo che attraverso un'intesa con le regioni stesse sia possibile anche integrare maggiormente le capacità ispettive ed anche ampliarle. Ecco Ministro, secondo lei c'è una carenza di uomini, mezzi e risorse per le ispezioni sul lavoro? Io credo che prima di tutto ci sia una carenza di mezzi e risorse per quanto riguarda la prevenzione, la formazione e l'informazione. Moltissimi infortuni sono determinati da errori comportamentali, il che significa che c'è proprio una grande carenza in termini di formazione e di informazione. E quindi occorrono più investimenti pubblici ma anche privati a questo dedicati da parte delle imprese, da parte degli organismi bilaterali che sono promossi dalle organizzazioni degli imprenditori e dei lavoratori, come per esempio i fondi per la formazione continua. Vuole rimettere in discussione il piano straordinario, quindi sarà sui controlli? Il piano straordinario include anche una maggiore capacità di controllo, ovviamente. Vuole rimettere in discussione il testo unico sulla sicurezza? Le parti sociali dovranno discutere anche delle regole, ma è un problema quello della collaborazione tra le parti che investe la condivisione delle regole. È necessario favorire la condivisione tra le parti delle regole. Il governo si porrà come terzo rispetto a questo tema e cercherà di far convergere le parti intorno a una ampia operazione di condivisione che riguarda le cose da fare e le regole da applicare. Grazie. Grazie.